salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi tre novità che hanno una cosa in comune. Sono tutti e tre musicisti che provengono dall'area chicagoana, un'area che peraltro ha prodotto molti giganti del jazz, però non parliamo di personaggi famosi, come consuetudine di Salpinaz. C'è un po' l'intenzione di cercare dei nomi meno noti o personaggi che comunque meritano di essere conosciuti o ascoltati. Il primo, il più giovane, e anche decisamente il meno conosciuto, si tratta di Jarrod Buff, è un sassofonista, tenore, e che però è più conosciuto nell'area di Chicago dai musicisti in quanto aggiustatore di sassofoni, di strumenti musicali, cioè è il fornitore di servizi di moltissimi dei musicisti chicagoani. E poi però appunto anche studiato composizione e musica, appunto facendosi notare come un talento compositivo interessante, e non ha certamente al suo attivo molte produzioni discografiche. Questo è il secondo disco, il primo è uscito nel 18. Non è giovanissimo, insomma, non è, come dire, personaggio di mezza età. E il disco che ha pubblicato da poco, per l'etichetta Calligram, è Brighter Days. Viene accompagnato, tra l'altro, con la stessa formazione del primo disco, viene accompagnato dal chitarrista Tim Steen, il bassista Matt Ullery e il batterista Joe dei temi. Ascoltiamo un paio di composizioni di Jarrod Buff. È un sassofonista che si rifà decisamente allo stile cool, se è possibile ancora più diafano, più sintetico, e comunque è stato segnalato dalla rivista Downbeat come un disco interessante, e quindi con una recensione positiva. Ascoltiamo due composizioni di Jarrod Buff. Thank you. Thank you. Questo era Jarod Buff, tenorista, sicuramente non conosciuto, aria di Chicago, che viene accompagnato da Tim Steen alla chitarra, dalla batteria di John Daytimer e dal basso di Matt Ullery. E il basso di Matt Ullery, con anche le capacità compositive di questo bassista veramente notevole, lo troviamo anche nel prossimo disco che ascolteremo. E Matt Ullery è un contrabbassista, compositore, è un musicista tutto tondo, anche produttore discografico e di varie attività, insegnante. E sono già diversi anni, più o meno sono una quindicina d'anni, che si propone periodicamente con dei progetti sempre di alto livello. Il primo, tra l'altro, la prima pubblicazione discografica fu un lavoro orchestrale, piuttosto complesso e estremamente ben riuscito. Ha ottime capacità compositive, una certa propensione anche per le influenze di ogni tipo di cultura, quindi non solo jazzistica ma anche classica e soprattutto rock. E quest'ultimo lavoro uscito in quintetto, titolato Mother Harp, è in quintetto appunto ed è con una formazione composta da un trombettista straordinario, Russ Johnson, e poi al sax tenore o clarinetto Artie Black, Dustin Laurenzi al un altro sax e chitarra elettrica, Quinn Kirchner alla batteria e appunto Matt Ullery, che ha firmato le composizioni ed è anche al basso elettrico in questo caso. E il risultato, a mio avviso, ancora una volta non delude. Ascoltiamolo adesso in alcune composizioni, sono poi piuttosto brevi, per cui ne ascoltiamo quattro. E vale la pena vedere anche un po' tutte le facce di questo progetto, di questa medaglia, che è la, credo, dodicesima prova. Thank you. era il quintetto di Matt Ullery, il disco Mother Harp, che è uscito di recente, un'ennesima prova di lucidità, insomma, di creatività di questo contrabbassista, compositore chicagoano. Passando all'ultimo, decisamente, io almeno non lo conoscevo affatto, ed è stata una bella sorpresa, un batterista che viene dal Messico in una tournée si è fermato a Chicago, e quindi è rimasto a Chicago e svolge la sua attività di insegnamento e di creatività musicale. Si tratta di Gustavo Cortiñas, ed è un batterista insegnante di percussioni. Il disco uscito, ormai lui ha al suo attivo diverse produzioni, quindi non è, ma sarà più di un 15 anni che produce dischi, quindi anche questo più o meno coetaneo degli altri due che abbiamo ascoltato. E quest'ultimo lavoro è stato una sorpresa, e quindi merito anche a Downbeat per averlo segnalato, tra l'altro con, adesso non ricordo se 4 stelle e mezzo o 5, appunto il massimo. Ed è un quartetto strano, un quartetto che vede la presenza di Mark Feldman al violino, che non si sente più tanto frequentemente, ma che è stato uno dei protagonisti dell'avanguardia dall'inizio anni 90 fino perlomeno tutti gli anni 90, ma ha fatto anche produzioni straordinarie, e che recentemente però lo si sente sempre più raramente, un po' anche per il tipo di sonorità che propone il suo strumento. E poi John Airbagon alla sax tenore, che conferma ancora una volta di essere estremamente eclettico, quindi di trovarsi e di muoversi a proprio agio nei contesti anche più diversi. Poi alla chitarra Dave Miller, e infine appunto alle percussioni Gustavo Cortiñas. Il disco è intitolato The Crisis Knows No Borders. Ascoltiamo 3 composizioni che sono tutte firmate dallo stesso Cortiñas. Questo era l'ultimo disco uscito di Gustavo Cortiñas, batterista, compositore, anche, come dire, ben capace di manovrare nell'ambito elettronico. Un disco intitolato The Crisis Knows No Borders, con Mark Feldman, John Arbagon, Dave Miller e appunto Gustavo Cortiñas alla batteria. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche potete trovare nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica playlist. Salve a tutti e alla prossima.